Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io ero ammaliato da lui quando raccontava, perché aveva una memoria impressionante, ricordava tutto nei dettagli. Mentre lui parlava io mi immedesimavo in come lui poteva vivere in quel momento, quella storia. Iniziai a chiedergli in quanti posti avesse combattuto, in che condizioni, di descrivermi le divise, come era tornato a casa e un sacco di altre domande. Storie di un incontro con un soldato e di un ragazzo nel posto sbagliato, in una puntata che si intitola Quanti uomini hai ucciso? Basta, soldato italiani! Basta! Basta, soldato italiano! Non si fa uccidere così! Tornate indietro! Basta! Stop! Basta! Basta! Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! È la voce di Gianmaria Volonté, quella che sentiamo in questo pezzo di film che si intitola Uomini contro di Risi, che racconta appunto di questi soldati che vengono mandati al massacro. Si parla della prima guerra mondiale. E la puntata di oggi si intitola Quanti uomini hai ucciso? Perché abbiamo storie di questo tipo. Abbiamo la storia di un giovane ragazzo che è affascinatissimo dai racconti di guerra e trova un anziano reduce e gli fa un sacco di domande, gli fa troppe domande, gliene fa una in particolare, che è una domanda sbagliata. E poi andiamo invece a Nassiriya, andiamo con l'unico sopravvissuto civile di quella strage che tutti ricordiamo del 2003, che ci racconta quella linea d'ombra della sua vita. Era là per fare un film e da lì in avanti la sua vita è letteralmente cambiata. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Sono il primo di tre figli, poi c'è mia sorella, Cree, con cui ho sempre avuto un rapporto meraviglioso, anche adesso che siamo ognuno sposato con la prole. Io e Cristina abbiamo poco più di un anno di differenza e questo contribuì a legarci l'uno all'altro come dei gemelli. Dopo 4 anni nacque mio fratello, Andrea. Con lui siamo molto diversi, caratterialmente. Nonostante sia il più piccolo, ha sempre avuto un comportamento prematuro, affrontava la vita di petto. Era preciso e risoluto fin da piccolo. È un tipo pratico. Mi ha sempre incuriosito la sua totale incapacità a prevedere le conseguenze, tanto è sicuro di sé, al limite della presunzione. Ma nonostante le nostre diversità, ha sempre prevalso il senso della famiglia e ogni volta che ho avuto bisogno di lui, lui mi ha sempre aiutato e viceversa. Potrei dirglielo che gli voglio bene, ma mi prenderebbe in giro. Mio fratello era molto più maturo di quanto lo fossi io a 20 anni. Aveva un buon lavoro, un'auto tutta sua ed è stato il primo di noi tre figli a portare la sua fidanzata a casa, una ragazza adorabile con cui legammo subito. Quando, dopo qualche tempo, andammo a conoscere i genitori di lei, di quella che oggi è mia cognata, io ebbi come la sensazione di non essere mai uscito da casa mia, per la sintonia e l'armonia che regnava. Sembrava di conoscerli da sempre, e riunirci per pranzi o cene divenne sempre più frequente e sempre più piacevole. Giusy, questo è il nome di mia cognata, viveva in un piccolo paese poco distante dal nostro, con i genitori, la sorella, e adiacente alla sua casa abitava il nonno paterno, che accudivano per via della sua veneranda età e della malattia che a volte non lo rendeva lucido. Questo singolare signore si chiamava Peppino. Peppino era presente ogni volta che andavamo a cena a casa loro, parlava poco, mangiava poco e andava a letto presto. Aveva pochi capelli bianchi dai lati, asfaltati da un'ampia fronte che sembrava continuasse sul capo e dava una strana lunghezza al suo volto. Una bocca piccola incastrata in un viso pieno di rughe che avevano standardizzato un'espressione malinconica. Non gli diedi molta importanza da principio, forse perché non l'avevo mai osservato veramente. Una sera, Giusy mi fece leggere su un quaderno tutti gli appunti che trascriveva quando suo nonno era lucido e scoprì che Peppino aveva una memoria incredibile. Ricordava tutto, date, posti, nomi, tutto, con minuzia di particolari. Fui molto incuriosito da tutti quei racconti, ma restai molto affascinato dai racconti che faceva sulla guerra. Io adoro la storia, mi affascina il passato e non avevo mai parlato con un veterano della Seconda Guerra Mondiale. siamo sempre andati d'accordo con le famiglie, c'è stato sempre un'aria serena. Ma tuttora, io tuttora con i genitori di mia cognata, quando li incontro, andiamo molto d'accordo. Immaginavo già tutte le domande che avrei potuto fare e chiesi se anche io potevo porre qualche quesito, dato il mio bramoso desiderio di parlare con lui. Giuse disse di sì e che anzi a Peppino avrebbe fatto piacere parlare dei vecchi tempi. Io ero smanioso di parlare con lui, volevo sapere dettagli, che cosa mangiavano, quanto mangiavano, cosa pensavano, come è riuscito a tornare a casa, insomma mi interessavano tutti i dettagli, piccolezze che un documentario o un libro non sempre ti svela. Non passò molto tempo, ma per me fu tantissimo. Cenammo da Giusy in una tiepida sera d'estate. Entrai e dopo qualche convenevole mi accorsi che il mio interlocutore non c'era. Mi informai subito, mi dissero che sarebbe arrivato a momenti. Lui adora le salsicce, mi risposero. Quella sera mangiammo carne grigliata, regnava la solita tranquillità, mentre in terrazzo un tiepido fuoco consumava lentamente alcuni tronchetti di legno non del tutto anneriti. Mio padre coricò con delicatezza le enormi bistecche sulla griglia. La carne aveva tutte le sfumature del rosso. Si alzò una nube fitta, grigia, di fumo. Mi spostai e appena la nube si dissolse, vidi una figura col bastone che si avvicinava lentamente verso di noi. Era lui, il mio documentario vivente. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Of my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Aspettai che salutasse tutti e che lentamente salisse i 3 gradini che dividevano il terrazzo della sala da pranzo. La carne aveva già perso ogni traccia di rosso, ma per via dello spessore avremmo dovuto aspettare qualche minuto, così ne approfittai e mi misi sul divano di fianco a Peppino. Andai subito al sodo, senza giri di parole. Gli dissi che avevo letto i suoi appunti e che aveva una memoria infallibile. Lui, divertito dalla mia ammirazione, mi fece un sorriso sincero e si lasciò andare un commento su quanto fossero stati difficili quei tempi. Iniziai a chiedergli in quanti posti avesse combattuto, in che condizioni, di descrivermi le divise, e che cosa facevano quando non combattevano, come si comportavano con i superiori, come è tornato a casa e tante altre domande banali, dettate solo dal mio egoistico interesse. Ci sedemmo a tavola, ma non smettemmo di parlare. Lui era davvero divertito dalla mia curiosità e rideva quando una domanda era insulsa, ma rispondeva sempre. Feci sedere prima lui in modo che io potessi sedere di fronte per non perdermi neanche una parola di quello che mi raccontava. Iniziò a raccontarmi alcune vicende. Avevo esaurito le domande, quindi lo ascoltavo stando zitto mentre lui andava a ruota libera. Le emozioni dentro di me si mescolavano per lo stupore, passando dalla tristezza alla rabbia all'ammirazione. Mi raccontò di come alcuni suoi compagni fossero rimasti a terra e lui e altri caricarono sulle spalle i loro cadaveri per poterli seppellire. Storie tristi raccontate con una lucidità e con più particolari di una fotografia. Rimasi zitto a fissare la mia bistecca, cercavo di saldare quei racconti, non volevo dimenticarli. E intanto facevo ordine nella mia mente dopo quello tsunami di dettagli e suggestioni. Tagliai un pezzo di carne al centro, aveva un colore dorato, in mezzo era rosa. Prima di aprire la bocca mi accorsi che era fredda, così lo rimisi nel piatto. Alzai gli occhi e Peppino era intento a infilzare un pezzettino di carne con la sua forchetta. Ecco, fu allora che lo feci. È un grande uomo, veramente un grande uomo. Quando andavo lì, lo vedevo, ci raccontava sempre queste storie, questi aneddoti che a volte magari erano cose curiose, cioè ci rideva su magari, no? Quando poi si soffermava a raccontare l'orrore della guerra, era il racconto proprio brutale di uno che l'ha vissuta. Forse questo era ancora più autentico e quindi mi colpiva e mi affascinava ancora di più questo aspetto. Lui era bravissimo a ricordare tutto, ricordava date, ricordava posti, ricordava, sai, uno di quei vecchietti che ormai non se ne vedono più. Non capisco da dove mi sia venuto e che cosa mi aspettassi che rispondesse, ma ancora oggi ho i sensi di colpa. «Quanti uomini ha ucciso?» gli chiesi. La sua forchetta smise di infilzare la carne. Il palmo della sua mano strisciò poco più in là per prendere il tovagliolo. Si pulì gli angoli delle labbra con gli occhi persi in quella carne fatta a pezzi. Poi alzò gli occhi dal piatto e mi fissò con un'espressione indecifrabile. Gli occhi come due fari, la bocca serrata. Fu un attimo, ma a me sembrò che la luce del suo viso impiegasse molto più tempo per arrivare alle mie pupille. Prima che mio padre, seduto di fianco, mi desse un colpo sulla spalla, intimandomi che non sono domande da fare e scusandosi per il mio comportamento, mi accorsi che non l'avevo solo messo in imbarazzo con una domanda a dir poco sgradevole, ma gli avevo fatto rivivere quei momenti. Alzò gli occhi, ma non mi stava fissando. Andò oltre di me in quella stanza, oltre lo spazio e forse oltre il tempo, andò con i ricordi a quelle atrocità. Con una domanda avevo messo la mano nel fango più tetro della sua mente e avevo fatto emergere reminiscenze repellenti per poi lanciargliele addosso. Quando si riprese, abbassò gli occhi e accennò un mezzo sorriso. Cercai di chiedergli scusa, ma il nodo di imbarazzo che si fermò dentro la mia gola fece in modo che dalla mia bocca uscissero solo dei gemiti strozzati. Lui però capì. Fece un gesto con la mano come dire «lascia perdere». La mia intervista era finita. La serata andò avanti come al solito. Quando lui se ne andò, non riuscii a guardarlo. Qualche anno dopo morì. Ho sempre provato molta vergogna per non essere mai riuscito a scusarmi, per avergli fatto rivivere quei momenti, per aver oltrepassato il sottile confine tra curiosità e vessazione. Dominate, out on the hillside, waving airplanes and pulling our wrists. No girl of mine's gonna see me cry. She'd be better off seeing me dead. Quanti uomini hai ucciso? Si intitola la puntata di oggi e inevitabilmente abbiamo preso spunto dalla storia, dalle parole stesse di Domenico, che ha il telefono con noi e a cui adesso facciamo noi un po' di domande. Ciao Domenico, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Come stai Domenico? Tutto bene? Bene, bene, benissimo, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Io abito a Firenze, provincia di Parma. Ah, oh, a Firenze? Ah, ok. Però sei calabrese, dico bene. Sì, sono calabrese. Il nonno Peppino era... Non ho papino, era calabrese. Era calabrese, ok, perfetto. Sì, sì, sì. Di che parte sei della Calabria? Provincia di Vibo Valentia. Vibo Valentia, ok. Dimmi il nome del paese che mi piace sempre tantissimo, anche se non li conosco. San Costantino Calabro. San Costantino Calabro, parliamo di 1.000-2.000 abitanti? Sì, circa 3.000, sì sì. Perfetto, tipo il mio paese. Mi piace sempre, mia madre mi dice, ma perché chiedi i nomi dei paesi? Perché mi piace così immaginare i luoghi di questo nostro grande paese pieno di piccoli altri paesini. Senti, piccoli borghi, Domenico, sì. Io partirei dalla prima cosa che viene da chiederti ed è, tu sì. Sei curioso su tutto oppure proprio sulla storia in particolare che no. hai... No, no, no, io sono molto, cioè, curioso, io sono un appassionato, mi piace la storia, mi piace la storia della la guerra, cioè quello che c'è, il Novecento in particolare, okay. Mi ha appassionato sempre questa, la storia, anche da piccolo. Ma senti Domenico, invece quando, quando tu chiedi questa cosa a nonno Peppino, lui ha proprio quella sì. reazione lì totalmente spiazzata, cioè te ne accorgi subito che la domanda sì. era inopportuna. Sì, cioè, sì, sì, è stata una, in realtà è stata una figuraccia, un totale figuraccia, però se io sono andato un po' oltre, perché oltre alla figuraccia, oltre all'imbarazzo immenso che avevo, proprio il suo sguardo che mi ha molto colpito, mi ha freddato, mi ha lasciato. Questo però non ha rovinato il vostro rapporto, cioè poi no sì. cioè ho fatto una figuraccia sì però no non ha rovinato il nostro rapporto, è stata una caduta di stile, ma comunque poi mio papà mi ha subito ripreso, mi ha detto non si fanno queste domande, insomma, ma ha stressato la situazione, capisci, perché lui ha abbassato gli occhi, è stato imbarazzante, ho superato il limite, come sì sì sì lo capisco, perché diciamo anch'io ho una forma di curiosità che quando ero ragazzino facevo fatica a trattenere, e infatti mia madre sì. mi cazziava sempre, tipo queste cose non si chiede, guarda, una cosa che mi sono lasciato andare, perché è stata una cosa spontanea che non ci ho riflettuto, cioè mi è venuto proprio fuori così a chiedere una cosa del genere. Quanti erano? 10 anni fa, grosso modo, Domenico, giusto? Tu avevi 24 sì, anni, adesso sì, ne hai 33, circa, sì 33, circa 10 anni fa, sì sì sì. Senti, tu sei, sì. sei così esperto di carne e la citi così tanto nella tua storia perché sei un macellaio, giusto? Sì, sì, sono un macellaio e sì, sì, mi piace. Come si diventa macellaio? Per famiglia o per scelta? Beh, non, cioè, entrambe, io sono diventato per famiglia e per scelta, perché comunque il mio bisnonno aveva una macelleria, poi ce l'ha avuto mio nonno che ha insegnato a mio padre, che ha insegnato a me, quindi, ed è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi ce l'ho un po', è un po' una passione oltre certo. che un lavoro, quindi... Ma quindi l'hai aperta in provincia di Parma? Cioè l'hai aperta a Fidenza? O... No, ma no, io non sono libero professionista, ho lavoro in un grande magazzino. Ah, diciamo, okay, un okay. Grande... ok, chiarissimo, quindi non fai, non fai vendita al dettaglio. No, riforniamo ristoratori, macellai, siamo una vendita all'ingrosso. Ok, no, te lo chiedevo perché io quando vado dal macellaio ho la sensazione che si dividano in due categorie, quelle a cui fa piacere che gli si chiede come lo cucino questo, e quelle invece che ti guardano come dire, oh, sono un macellaio, non sono un cuoco, perché io a tutti, scusi, questo pezzo qua, lei come lo farebbe? E ce ne sono alcuni che sono felicissimi, guarda, allora lo fai con un goccio d'olio, poi lo metti nel forno, lo lasci lì, e altri invece che ti guardano come dire, ma a me lo chiedi, scusa. Ci sono i macellai più esperti che sanno consigliarti anche sotto un punto di vista culinario, diciamo. Io sono una via di mezzo, non sono un grande esperto, però me la cavo, diciamo. Se mi chiedi un pezzo di carne, so dirti che quello va bene per il brodo, quello no. Ok, va bene. Senti, Domenico, ti ringrazio davvero tanto per la storia e la chiacchierata che abbiamo fatto. In bocca al lupo per grazie, tutto. Sì. A presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. So you live in the bottom of the sea, and you kill all that come near you. But you are very lonely, because all the other fish, they are you. grazie a Domenico per la storia che ci ha raccontato e anche per questa figura di Peppino che ci ha disegnato, che è una figura che in parte alcuni di noi che hanno avuto la fortuna di avere dei nonni o delle persone come Peppino che hanno attraversato la loro strada probabilmente ricordano e lo fanno abitualmente con grande affetto. Grazie ancora, ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Quanti uomini hai ucciso? Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Linee d'ombra. Nel novembre del 2003, esattamente il 12 di novembre del 2003, dall'Iraq arrivava una notizia. La notizia era quella di un'autobomba che esplodeva a Nassiriya, in quella che era considerata l'antica Babilonia, e così si intitolava, così si chiamava l'operazione che si trovavano a fare tra gli altri carabinieri italiani, operazione antica Babilonia. Erano lì ad aiutare i civili, a cercare di addestrare i civili e i militari iracheni e il loro esercito. Un'autobomba esplose, uccise 50 persone, 25 di queste erano italiane. La maggior parte di loro erano militari, ma tra loro c'erano anche dei civili. La storia che stiamo per raccontarvi è di uno di loro. Io sono una persona molto spirituale e questa è una conclusione un po' spirituale, eppure sono convinto che non sia avvenuto per caso. Se devo essere completamente sincero con me stesso, lo sapevo che c'era qualcosa che non mi quadrava. C'era qualcosa che intimamente mi diceva che non ci dovevo essere io lì. Sono passati 17 anni dagli eventi di Nassiriya in cui sono stato coinvolto e ho riflettuto molto sul mio trovarmi nel posto sbagliato. Queste sono parole di Aureliano Amadei, l'unico civile sopravvissuto all'attentato di Nassiriya. Aureliano ha raccontato la sua storia in un libro che si intitola 20 sigarette a Nassiriya, poi in un film che si intitola solo 20 sigarette, che ha vinto, tra le altre cose, la sezione Controcampo alla Mostra del Cinema di Venezia del 2010, tra i David Donatello e il David Giovani. Mauro Pescio, che ha partecipato come attore a quel film, lo ha incontrato a Roma e si è fatto raccontare la sua storia solo per noi. In questa puntata che si intitola Quanti uomini hai ucciso, la seconda storia è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. A chi non è mai capitato di trovarsi nel posto sbagliato, anche con conseguenze meno nefaste di quelle di Nassiriya? Ma se ci pensiamo poi a posteriori, ci accorgiamo che a spingerci fino a quel punto non siamo mai spontaneamente, intimamente soltanto noi stessi, ma un insieme di fattori che stanno sempre un po' al di fuori di noi. Oggi penso che i fattori che mi hanno spinto a ritrovarmi quel giorno a Nassiriya siano fondamentalmente due. Il primo è che mi ero ricavato tra il mio gruppo di amici e anche in famiglia il ruolo del mattarello, di quello che si butta in qualsiasi esperienza folle a piedi uniti. Due settimane prima di partire per l'Iraq, per esempio, a una festa mi sono buttato dal secondo piano di un palazzo solo per dimostrare ai miei amici che avevo il coraggio di farlo. Sono atterrato benissimo, tutto è andato bene, solo che alcuni non mi avevano visto, non ci avevano creduto e io per tutta risposta l'ho rifatto e mi sono fatto male. Ecco, quel tipo di ruolo che mi ero ricavato fra amici è stato il primo motore che mi ha spinto ad andare in Iraq. Il secondo motore è stato invece quello della mia carriera. Per la prima volta avrei fatto l'aiuto regia, praticamente il secondo ruolo in una produzione cinematografica, uno degli obiettivi della mia carriera. Un obiettivo anche bello, ma della mia carriera, non strettamente mio. Ma torniamo in partenza. Siamo nell'autunno del 2003, io da anni lavoro nel cinema facendo qualsiasi ruolo, dal runner all'assistente. Ho ricoperto tutti i ruoli, chiaramente con una propensione per la regia e un'ambizione e una velleità d'attore, e mi si prospetta di lavorare a un film. Si capisce abbastanza in fretta che la produzione non è seria. Cascano i ruoli, io da un giorno all'altro vengo investito del ruolo dell'aiuto regia senza meriti ottenuti sul campo e non faccio in tempo a dire sì che l'indomani devo partire. riesco giusto a raccogliere le mie cose e vengo preso e portato all'aeroporto militare di Pisa. Da là avrei raggiunto l'Iraq. Io mi ero finto gay per non fare il militare, ero anarchico e pacifista, e ora stavo per partire per l'Iraq con un rumorosissimo e freddissimo C-130 in compagnia soltanto di militari, senza il bisogno di visti, biglietti aerei o passaporti. In Iraq mi aspetta Stefano Rolla, il regista del film, che è già là da una settimana. Ho una breve però stringente quotidianità con l'ambiente militare. A sorpresa, alcune delle cose che vedevo non mi stavano così fortemente sulle palle come mi aspettavo che mi sarebbero state. Di conseguenza mi sorprendo a scoprire un mio pregiudizio nei confronti di un ambiente che non conoscevo. Ma tutto questo dura giusto il tempo del viaggio, perché già il giorno dopo, insieme a Stefano e ad una piccola scorta, ci troviamo a fare i sopralluoghi. Noi dovevamo andare a vedere una specie di ziggurat, una costruzione antica fuori dalla città di Nassiriya. Prendiamo la macchina con questa scorta, ma il carabiniere che normalmente, che la volta prima aveva accompagnato Stefano Rolla a vedere questa location, non è disponibile quel giorno, quindi lui prova a tentoni con la mappa a cercare questa location e non la trova, ci perdiamo. Quindi di fatto torniamo verso la città di Nassiriya a chiedere delle informazioni. L'attentato di Nassiriya avviene intorno alle 10:20 ora locale nella caserma maestrale di Nassiriya, dove noi eravamo da pochi minuti fermi aspettando che scendesse un carabiniere dalla palazzina per chiedergli delle informazioni sul posto dove saremmo dovuti andare. Mentre aspettiamo il carabiniere con le informazioni giuste, Stefano incontra altri carabinieri che conosce molto bene, che sarebbero già dovuti rientrare in Italia. Avevano finito la loro missione, ma a loro era stato rimandato di pochi giorni il volo e stavano lì ad aspettare. Stavamo parlando proprio di questo, nel momento in cui è arrivato il camion bomba che ha ucciso tutti i presenti, all'infuori di me. Dopo pochi giorni vengo catapultato in un altro posto per me sbagliato. Per parecchi mesi continuativamente e poi per circa 2 anni a giorni alterni sono stato ospedalizzato all'ospedale militare del Celio. Ero sempre sotto morfina, ero ferito gravemente e in un posto estraneo. Era molto difficile per me capire le situazioni, gli incontri giusti e quelli sbagliati. Ho fatto finta di dormire quando Alessandra Mussolini è venuta a portare i suoi omaggi al reduce di Nassiriya. Mi sono stati dati i numeri di telefono da portaborse vari di tutto lo spettro parlamentare nel caso avessi avuto bisogno di una mano in cambio di portare la mia testimonianza alle campagne elettorali. Ho incontrato e chiacchierato con 2 presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano. Un prete, pur sapendo che ero ateo, veniva tutti i giorni a trovarmi e a parlare con me. Lentamente diventiamo quasi amici e un giorno mi prospetta la possibilità di andare in udienza dal Papa. E io dico di sì. Per quanto ateo, l'idea di scambiare 4 chiacchiere con il Papa, sì, mi sarebbe piaciuta. Lui si attiva, ma nonostante i tentativi, questo incontro non avviene mai. Ad anni di distanza sono molto contento di aver sempre dimostrato in ogni occasione che sotto quel punto di vista questa esperienza non mi ha cambiato. Per superare un'esperienza del genere da un punto di vista psicologico, io sono cambiato sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto emotivo, delle sicurezze personali, anche in alcuni ragionamenti, però io sono rimasto fermo in alcune cose fondamentali. Sono rimasto anarchico, sono rimasto ateo, sono rimasto antimilitarista, sono rimasto pacifista. Ecco, dei punti fermi non sono cambiati. Quello che c'è stato è stato un cambiamento emotivo. Ho imparato a empatizzare di più con le persone, anche coi militari, ad esempio. Ma non c'è stato un cambiamento di principio o di punti fermi, e forse quell'incontro avrebbe indebolito molto questa mia posizione. Io ho raccontato questa storia tutti i giorni per i primi 10 anni, circa 3650 volte, negli ultimi 3 anni almeno 3 volte a settimana. E questo mi capita per 3 ragioni. La prima è la curiosità delle persone, e purtroppo le occasioni non mancano. Poi perché il superamento di un evento del genere non passa mai per l'oblio, ma passa per il ricordo. Il parlare di quell'esperienza diventa parte dell'esperienza stessa. E la terza ragione è che c'è una tale cesura nella mia vita, fra il prima e il dopo, che quando parlo di me, parlo per forza anche di quell'esperienza. Con il film e il libro poi quell'esperienza non è più solo un'esperienza di vita, ma è diventata anche un'esperienza professionale. Oggi, passati 13 anni, non ho più la certezza che i miei ricordi siano autentici, oppure filtrati dal tempo, dal libro o da qualche chuck tagliato del film. Da allora mi è stato proposto 2 volte di tornare a Nassiriya, ma ho declinato l'invito. Ho accampato impegni e motivi professionali, ma la verità è che me la sono fatta sotto. Trovarsi nel posto sbagliato può capitare. Tornarci è da pazzi. Caresser la mitraille, cette plaie qui me tiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera. Génétique comme en ouillère, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Questo è il racconto che Mauro Pescio ha raccolto direttamente dalla voce, l'avete anche sentita, di Aureliano Amadei. Se avete voglia di saperne qualcosa di più, potete leggere il suo libro 20 sigarette in Nassiriya, oppure vedere anche il film 20 sigarette. E se conoscete un pochettino la faccia di Mauro Pescio, forse là tra i militari di quel film potete anche riconoscerla. Davvero la storia di Aureliano è una storia che parla di una linea d'ombra clamorosa, devastante, come devastante un camion bomba che deflagra. E lo ringraziamo per avercela raccontata. Ora continuiamo a raccontare, o meglio, prima ascoltiamo Le strade in diretta e poi andiamo in un altro teatro di guerra, che non è nemmeno un teatro di guerra, ci si prepara alla guerra e poi chissà cosa accadrà. Sto parlando della storia seriale di Antonio Cocco. Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. Linee d'ombra. Quando il nostro Mauro Pescio si è trovato all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano e ha incontrato Gianni Cocco, il fratello di Antonio, e altri componenti della famiglia, mi ha raccontato di un incontro splendido con queste persone che, nonostante sia passato tantissimo tempo, ricordano perfettamente quello che è accaduto e hanno voglia di raccontarlo, nonostante sia stata una ferita grande per tutta la famiglia, quello di avere un fratello lontano che cercava, che voleva a tutti i costi tornare a casa, e in qualche modo non ci sono riusciti. Il padre le ha provate davvero tutte, eppure non ci sono riusciti. Ecco, è per questo che voglio davvero ringraziare ancora una volta la famiglia Cocco perché questa storia, che è una storia che appartiene alla loro famiglia, è diventata in parte anche la nostra storia. Raccontandola quotidianamente la sentiamo ancora di più. Andiamo là, quindi. Andiamo con Antonio nella fase in cui ormai sta pianificando tutto per quella che per lui vuole essere assolutamente una fuga. Sta chiedendo le ultime cose al padre, gli sta dando dei dettagli ben precisi su come muoversi, cosa fare, a cosa fare attenzione e dove porre tutti quanti i dettagli perché lui possa finalmente prendere, partire e tornare a casa. Caro papà, molto probabilmente, da quello che dice Martin, non ne avrò bisogno, ma se qualche cosa non va bene è necessario che abbia una somma. Non si sa ancora come marci la faccenda del mio viaggio. Se non ne avrò bisogno, i soldi naturalmente non andranno persi. Abbiamo pensato che è meglio che tu mandi un modulo di 75.000 franchi, e mi sento sprofondare dalla vergogna e non mi sarei mai permesso, credimi, ma è difficile, ma spero che non ne avrò bisogno. Insomma, 75.000 franchi al console italiano in Algeri. Adesso viene la faccenda per riaverli, ma anche a questo abbiamo pensato. Io naturalmente non ho documenti con me. Ti metto qui un piccolo foglio con la mia firma che tu manderai al console. Io mi presenterò là e firmando a mia volta potrò avere i soldi, sempre se ne avrò bisogno. Questa naturalmente è una cosa un po' meschina, ma non trovo altra via. Puoi ben scrivere al console tutto, non credo troverà difficoltà, lui non rischia niente. Oppure puoi mandargli una mia foto, guarda te, insomma. Leggiamo un brano tratto dal diario del padre. Forse io pretendo troppo e loro hanno troppo da fare per occuparsi di me. Mi rammarico però che anche gli amici mi abbiano abbandonato. Attendere, sì, attendere. E ci riesco abbastanza bene, ma certe volte mi sembra di non poter sopportare più. E allora, fantastico su quali via perseguire e quali mezzi usare. Correre in Africa e cercare di farlo fuggire come egli progetta. Ma non ho esperienza. Di laggiù non ho appoggi, la cosa mi sembra insensata. Con tutta probabilità provocherei il disastro finale. Attendere. Bisogna attendere. Oggi è arrivata a casa una cartolina dell'ufficio di leva diretta da Antonio Cocco di Luigi. Quanto vorrei che potesse rispondere all'appello della patria, ma egli milita sotto un'insegna straniera. La sua giovane vita che ho tanto curato l'ha offerta, l'ha venduta anzi, ad un altro paese. No, no, non lui l'ha venduta, gliel'hanno rubata. Loro gliel'hanno rubata. Loro, i negrieri, i ladri di ragazzi, i profittatori dell'altrui inesperienza, della colpevole dabbenaggine dei nostri governanti, che non sanno e non osano difenderci. Una cosa ti prego, papà, non pensare che sia una stramberia. Ci sono di mezzo persone anziane e se pensi che io non abbia la testa sulle spalle, spero almeno avrai fiducia di loro. Come mi ricordo tutta sensazione a tavola che a volte, dai che stavolta torna, dai che stavolta ti chiamo, cioè questi momenti in cui ci scambiavamo occhiate, eccetera, nel silenzio della lettura, che ci scambiavamo, io vedevo i miei fratelli che la reazione a volte di contentezza. I know what I am, and I know what I'm not. I'm on the storia di Antonio Cocco, vi ricordo che potete trovarla se avete voglia di leggerla per integrale, o magari leggerla mentre ascoltate la nostra storia, il nostro podcast o la nostra trasmissione in diretta. Ovviamente potete, vi dicevo, trovarla in questo libro che è stato pubblicato da Terre di Mezzo, avendo vinto il premio Pieve, cioè il premio indetto dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Vi dicevo, si intitola La Ridotta Isabelle, è firmato ovviamente da Antonio Cocco ed è pubblicato da Terre di Mezzo. Io ringrazio ancora Mauro Pescio, ringrazio tutte le persone della famiglia Cocco che ci hanno aiutato, e poi grazie ovviamente a Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Ora ascoltiamo il GR e domani torniamo puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!